Compagni, amici e fratelli, benvenuti al mio funerale. Mi chiamo Macalusto Michele, mio nonno fabbricava case, mio padre fabbricava case, io ho fabbricato case, case, case, quante case. Modestamente siamo stati tutti artisti a fabbricare case per gli altri, noi sempre in affitto. Ma adesso mi aspetta l'ultima dimora e per male che mi vada, per quello che ho fatto, certo qui non avrò lo sfratto. Mi sono sistemato. 60 anni sgobbati in cantiere, assassinato da un tubo innocente, né dottore, giammai cavaliere, becco e povero, or dunque perdente. Nacqui nobile, dentro si intende, e qualcuno rubò la mia parte. Vissi come chi in culo lo prende, e anche questa, credetemi, è un'arte. L'arte è cosa assai complessa, chi la cerca è sempre a un passo, chi la cerca in un Picasso, chi la trova mezza fessa. L'arte è cosa assai complessa, Picasso ha la fissa in sua realtà. Per la strada mi son diplomato e ho capito un po' tutto e un po' niente. Non ho fatto gli esami di Stato, ma ho imparato a conoscer la gente. Per un tempo mi sono indrogato e facevo una vita da cani, e l'ho fatta col vino annacquato e pipponi sparati a due mani. Oh, guardate qua, ci tengo l'impronta della manopola come i motociclisti. C'ho il callo, la cicatrice, modestamente una copia della Cappella Sistina. Fin da giovanotto mi chiamavano il Bernini, ma non sono svizzero. Ho cercato ma invano la musa, ero giovane, bello e un po' pazzo. L'ho cercata in Europa e negli USA, ci ho trovato una cippa di cazzo. Così adesso, compagni, è finita, m'ha inculato quel tubo Valsano. Mentre voi che restate qui in vita, siete stati inculati da un nano. Coglioni.